24 mattino di Alessandro Milan. Ci siamo alle 7:19 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9 con Roberto Scaltritti in regia. Potete anche scriverci messaggi al 349-238-6666, siamo qui, siamo in diretta anche su Facebook nella nostra pagina 24 mattino. E di cosa parliamo nel nostro sondaggio oggi alle 8:30? Verrebbe da dire tassano tutto, anche le sfighe. Arriva la mini tassa per le cause di separazione, questo è previsto nella manovra, manovra tanto discussa, manovra di cui oggi si parla per dire ci vuole un intervento di coesione nazionale perché il momento è molto delicato, molto difficile. Arriva, ebbene sì, la mini tassa per le cause di separazione, chi si separa dovrà pagare una tassa. Che ne pensate? Ne parliamo alle 8:30, votate su radio24.it. E come al solito andiamo a vedere cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Beh, i quotidiani sono tutti concentrati in questo martedì 12 luglio sulla situazione finanziaria e sul rischio che incombe sui mercati italiani per la speculazione estera. Italia bersaglio degli speculatori, così titola il Sole 24 Ore in apertura di prima pagina. Allarme nell'Unione Europea, l'Eurogruppo promuove la manovra, la Merkel, abbiamo fiducia. Per il Corriere della Sera, tempesta sull'Italia, la politica si muove, mercati in caduta, Milano perde quasi il 4%. Per Repubblica, attacco all'Italia, crollano i mercati. Per La Stampa, borse giù, Italia nel mirino. Il titolo di Libero, per buttar giù Silvio, buttan giù l'Italia, il crollo delle borse. Il Fatto Quotidiano, speculazione e corruzione divorano l'Italia. Per Il Giornale, De Benedetti affonda, stangata a Piazza Affari. L'Unità, il crack del governo, profondo rosso, Italia, borsa a picco. Per Il Manifesto invece il titolo è Un lunedì da maiali. Sotto il tiro della speculazione l'Italia rischia di finire tra i pigs. Il Messaggero, borsa in caduta, appello del Colle. Questi sono alcuni dei titoli di apertura. Vedete, la situazione è davvero difficile, ma vedremo. Tra l'altro Oscar Giannino oggi alle 9 si occuperà di questo tema. Io voglio partire però da due segnalazioni di altro tipo. La prima è questa, la troviamo un po' su tutti i giornali e l'abbiamo sentita anche in GR24. Quando ci sono i testamenti ci sono poi le liti. Lite sul testamento della Fallaci, indagato il nipote. Questo è il titolo del Corriere della Sera che vi dedica una pagina, pagina 27, ma anche Libero. Firma falsa sul testamento, indagato il nipote della Fallaci. La vicenda è stata portata avanti da Paola Fallaci, la sorella di Oriana Fallaci, che ha sempre avuto dubbi esternati in pubblico e in alcune interviste, racconta il Corriere della Sera con Marco Gasperetti. Per quella eredità lasciata tutta al proprio figlio Edoardo Perazzi, vale a dire il nipote di Oriana Fallaci. Edoardo Perazzi, 44 anni, manager nel settore della moda. Ebbene, per la madre di Edoardo Perazzi, cioè la sorella di Oriana Fallaci, quelle ultime volontà non rispecchiavano affatto il volere della sorella, nascondevano trame, sotterfugi. Edoardo era ormai considerato solo un ex figlio, accusato di essere stato un furbo, di andare a trovare Oriana nel periodo in cui era influenzabile, ma ecco ora l'accusa pesantissima. Ha presentato un documento dettagliato, la sorella di Oriana Fallaci, in procura, ipotizzando che la firma in calce al testamento di Oriana Fallaci sia un clamoroso falso. La procura ovviamente ha aperto un'inchiesta, ha inviato alcuni avvisi di garanzia, tra questi anche l'unico erede, Edoardo Perazzi, che dice il testamento di mia zia è sempre stato molto chiaro, mia madre vuole un'unica cosa, l'eredità di mia zia, niente di più, niente di meno. Insomma, si è aperta questa grande polemica sul testamento di Oriana Fallaci, ora viene indagato il nipote. La seconda segnalazione viene dal Giornale a pagina 20, beh, l'ho scovata davvero, si dice in taglio basso, cioè in fondo a una pagina, una storia che ha anche i suoi risvolti un po' comici, se non ci fosse una truffa di mezzo. La beffa del truffatore rumeno, messo in cella a fare truffe. come dite voi. Ebbene sì. Beh, la vicenda la racconta Enrico La Gattolla. Cosa accade se metti il topo davanti al formaggio? Beh, con ogni probabilità non se lo sono chiesti tra le mura del carcere milanese di San Vittore, perché ce ne vuole per dare a un detenuto che sconta una condanna per clonazione di carte di credito un posto al call center che riceve le donazioni attraverso le carte di credito, ma guarda un po', per Telethon, la maratona di beneficenza che ogni anno raccoglie fondi per la ricerca scientifica. Allora cosa accade? Beh, fin troppo facile, che il detenuto si prende i dati di chi telefona, li passa a qualche amico ancora in libertà che si mette a fare acquisti a spese di un ignaro pollo da spennare. Ebbene, è venuto proprio così. Un rumeno di 37 anni, Marius Eliodor, condannato a San Vittore, doveva scontare una condanna per associazione per delinquere finalizzata alla clonazione di carte di credito, e beh, nel 2007 riceve una buona notizia, viene messo a lavorare, e questo è un bene, insomma, potrà lavorare in carcere, ma a fare che lavoro? Viene messo al call center dove raccoglie le donazioni delle persone che lasciano i propri dati delle carte di credito per la fondazione Telethon. Ovviamente a questo rumeno non poteva sembrare vero, e allora che ha fatto? Senza duplicare bande magnetiche, si scriveva carta e penna il numero delle carte di credito di tutti coloro che telefonavano lasciando una donazione, e poi le passava a qualcun altro fuori che faceva una sontuosa truffa. E vabbè, e così è. E la beffa del truffatore rumeno messo in cella a fare truffe, questo lo racconta il giornale. Infine, forse c'è un altro tempo per un'altra segnalazione. Sì, la trovo dal secolo XIX, a pagina 9. Pochi lo sanno, in sordina, ma da lunedì prossimo, dal prossimo 18 luglio per la verità, sì che è lunedì, credo, il PC come croupier, l'Italia apre ai casinò online. Beh, è un qualcosa che, ripeto, in silenzio racconta il secolo XIX e non è neanche un caso che verranno aperti proprio la possibilità di giocare per gli italiani al casinò online. Per giocare in grande stile non sarà più necessario raggiungere uno dei 4 casinò terrestri presenti in Italia, ma sarà sufficiente accendere il proprio computer, fornire i dati della carta di credito, e gli interessi e le somme in gioco saranno enormi. Ed è per questo che, scrive il secolo, non tragga in inganno il silenzio assoluto in cui stanno avvenendo gli ultimi preparativi da parte dei gestori. Ancora una volta a guadagnarci saranno soprattutto le società che si sono aggiudicate le licenze e le casse dell'erario, mentre i perdenti saranno, come sempre, cittadini italiani. Già ora ci sono i casinò online, ma vanno su piattaforme straniere. Secondo la finanziaria del 2006 dovrebbe essere l'accesso agli italiani in teoria bloccato, anche se nei fatti il sistema di reindirizzamento dei domini approntato dalle istituzioni è stato aggirato dai casinò online stranieri, i loro siti risultano facilmente raggiungibili, ma da lunedì 18 luglio sarà tutto ancora più facile. Si aprirà al gioco d'azzardo libero sul web. E beh, perché voglia di guadagni. Nei primi 5 mesi di quest'anno il giro d'affari è aumentato del 30% rispetto al 2010. Il secolo la pone così, una rivoluzione nata per fare cassa da parte dello Stato. Ci risiamo. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:21 minuti e voglio salutare il sindaco di Monza, Marco Mariani. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Della Lega, leghista DOC. Allora, sindaco, sì. Arrivano i ministeri, così ha detto il ministro Calderoli. Il 23 luglio arrivano 3 ministeri a Monza, ma sembra più una butade, o no? Allora, prima di tutto non arrivano dei ministeri, arrivano gli uffici decentrati dei ministeri. Sì. Bisogna essere precisi in queste cose, perché per un trasferimento ministeriale ci sono delle leggi ben precise, un iter che tra l'altro in questo paese non è mai stato affrontato. Arrivano degli uffici decentrati dei ministeri, non è una butade assolutamente, questi uffici arriveranno, per cui è una cosa, mi sembra, molto, molto bella, molto innovativa. Per il paese è una cosa che fa parte del cammino di decentramento, diciamo, dei poteri, delle idee, se vogliamo, io preferisco chiamarle così, non avrei nulla in contrario se a Taranto la Marina Militare avesse un suo ufficio decentrato. E quindi bisogna, quindi va bene così. Il 23 luglio, ma dov'è che sono questi uffici decentrati? Nella Villa Reale di Monza, no? Straordinario. Sono la Villa Reale di Monza, straordinaria. Finalmente dopo 65 anni c'è stato un appalto serio di 27 milioni di euro che si è aggiudicato Italiana Costruzioni, che è una società prestigiosa nel campo del restauro, che ha fatto un'associazione temporanea di impresa con altre ditte, e finalmente partiranno, se non è entro fine anno, all'inizio del prossimo, i lavori di recupero. Senta un po', ma sindaco, ma voglio dire, ci volevano questi uffici decentrati per riqualificare la Villa Reale di Monza, no? No, nel senso, metterci degli uffici dei ministeri, ma che senso ha? Perché lei dice far circolare le idee? Beh, guardi, se lei va a fare una visitina a Schönbrunn, che è un pochino il gemello della Villa Reale, lei vedrà che buona parte ovviamente è dedicata al percorso museale, e infatti nella villa il percorso museale sarà dato da questi 27 milioni di euro di restauri. Però di uffici a Schönbrunn ce ne sono molti, anche dello stesso ministero, che peraltro è proprietario completamente della Reggia. Sì. Tenga presente che la Villa Reale sono circa 740 stanze, e se stanze tra l'altro tutte piuttosto enormi, abbastanza, insomma, grandi, ecco, quindi no. Ce ne sono una decina dedicate ai quante sono ai ministeri? Adesso saranno circa 200 metri, per cui niente di particolare, però bisogna tenere presente che poi una volta sistemata la villa va anche manutenuta, e non si può pensare di fare un museo di 740 stanze, altrimenti... Ma senta, ma cos'è, sindaco? C'è un modo da parte della Lega di far vedere, avete visto, no? Il federalismo passa anche attraverso questo, abbiamo gli uffici decentrati del ministero, poi quello di Calderoli, di Bossi e dell'economia a Monza, ho capito, ma... Che se lei dovesse andare a leggersi i primi giornalini della Lega dell'85, 86, 87... Lombardia autonomista, quei giornali lì, lei vedrà una specie di 10 comandamenti, chiamiamoli così, sì, tra cui anche questo, cioè fa parte di un cammino che la Lega ritiene normale per tutto il paese, lo ripeto, per tutto il paese, perché se voi guardate il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, parla di tutto il territorio italiano, sì. Poi l'unica città combinazione citata è Monza, perché evidentemente i ministri, e non il sindaco di Monza, ci mancherebbe altro, hanno pensato di utilizzare questa Monza, sede che anche lei ha definito giustamente prestigiosa di livello internazionale. La Villa Reale di Monza è fantastica. Ma lei è contento, orgoglioso che abbiano scelto Monza? Io sono orgoglioso come monzese, come sindaco, anche se non mi fossi mai occupato di politica, sarei comunque orgoglioso, perché è un riconoscimento molto importante per questa città. Cioè il 23 luglio dunque c'è questa inaugurazione, non si sa bene cosa, non so, verrà Calderoli, Bossi, metteranno una targa, signori, il protocollo cosiddetto lo decide il Consiglio, decide i ministri, certo. non noi, infatti staremo a vedere. Ieri mi hanno detto ci sarà un comunicato, ovviamente, con l'organizzazione, eccetera. Senta, non è uno spreco di denaro? Cioè si raddoppiano le sedi, insomma? Guardi, se vogliamo parlare di spreco in questo paese, le do degli spunti. Guardi la sanità nel Lazio. La provincia di Monza, no? No, la provincia di Monza. La provincia di Monza doveva arrivare 40 anni fa, perché lei saprà sicuramente come giornalista che la Brianza è uno dei quattro centri, delle quattro zone più industrializzate d'Europa. Come no, certo, sì. Sta però riprendendo per di più la Brianza della Baviera. Ma per questo ci vuole la provincia, perché è una zona industriale. Per questo ci vuole un'autonomia, perché le locomotive che tirano le devi lasciare libere, non le devi imprigionare, perché se non vanno neanche quelli che dovrebbero andare, si figuri quelli che sono fermi da sempre. Ma la provincia non è che è un'autonomia, la provincia autonoma di Monza? Non ho idea quante cose abbiamo già fatto con la provincia di Monza, che se avessimo dovuto far riferimento a Milano, ma attenzione, non per colpa della provincia di Milano, perché non esiste più non dovrebbe esistere più una provincia di 4 milioni di abitanti. Mm. Sì, cioè, poi Milano e Monza un po' di rivalità c'è, dai, diciamo la verità. No, vabbè, ma sana rivalità campanilistica. Va bene, sana rivalità, sì, mettiamola, ma non è quello. Il problema è che la provincia di Milano ha 4 milioni di abitanti ed è una provincia. La regione Molise ha 320.000 abitanti e due province. Certo, ed è, una, bene, è la regione. Questo è un paese in cui ci sono le comunità montane al mare. Mm. Vede gli sprechi, com'è facile prenderti al volo senza problemi. Senta, sindaco, io dovendo concludere, c'è questa cosa del dito medio di Bossi che ha fatto a una manifestazione, a un cantante che ha citato Tricolore Bandiera, ha fatto questo dito medio. Ma perché la Lega fa queste cose? Guarda, io non l'ho mai fatto. Lei non, no, l'ha mai, no, fatto. No, non lo so se Bossi ha alzato il dito. Beh, medio. Sì, dai, questo, c'è il video, ci sono le foto. Quando l'avrebbe fatto? E l'altro ieri, a Besozzo, dove Calderoli ha annunciato, tra l'altro, il 23 luglio. C'era un cantante che ha citato la tricolore, la bandiera, ci sono le foto sui giornali, ha mostrato il dito medio. No? Vabbè, io queste cose non le ho mai fatte, non le giudico particolarmente importanti. Bossi è sempre stato esplosivo da questo punto di vista. Io dico che la Lega deve continuare nel suo cammino per le cose per cui è nata, dopodiché io rispetto delle idee altrui. Sì. In ogni caso, anche delle mie, però. In ogni caso, arrivano i mobili. Sa il giornale che ha dedicato un'intera pagina, a parte la Padania, a questa notizia oggi dei ministeri? Oggi è il Messaggero, il giornale di Roma. Insomma, sono venuti, ci sono gli inviati alla Villa Reale. Ieri ho parlato con un giornalista del Messaggero. Sì, dovrebbero arrivare. Ma guardi che io non so, chi si aspetta cose così epocali, faraoniche, credo che rimarrà deluso. Il problema al giorno d'oggi, lei lo sa meglio di me, con una scrivania e un computer sei in contatto con tutto il mondo. Ah, non, vabbè. Non è che ci vogliano grosse cose. Allora le idee. È un po' una cosa di così, di facciata, per dare un simbolo. No. Non è una cosa di facciata. No. È una cosa che è la conseguenza di idee, di progetti ben precisi. Mm. Io comunque, guardi, ne sono tanti anni che sono in Lega, lo diceva anche lei prima. Sì. Tutte le volte che gli avversari, tra virgolette, politici hanno ironizzato sulle iniziative della Lega, io ho sempre detto, ma ragazzi, ma lasciateli fare. No. È sempre meglio che l'avversario ti sottovaluti. Io ho fatto sport per tanti anni e l'avversario, se ti sottovaluta, tu parti avvantaggiato. Abbassa la guardia e zac. Esatto, se al momento buono lo sei. E intanto io la ringrazio, sindaco, per stato con... Staremo a vedere il 23 luglio allora. Grazie al sindaco buon di lavoro. Monza, Marco Mariani, a lei, sindaco della Lega. E ci fermiamo per la pubblicità e meteo. E poi nella manovra, nelle pieghe della manovra, arriva una tassa. La tassa sulle separazioni. La tassa sui divorzi. Volete separarvi, cari coniugi? Vivete anche questo trauma e questa sfiga esistenziale, perché insomma è un trauma esistenziale, dovete pagare una tassa. 8:35 minuti, allora tra le pieghe della manovra è spuntata la nuova tassa, la tassa sulle separazioni, cioè volete separarvi, dovete pagare una tassa di 37 euro se la separazione è consensuale, 85 euro se la separazione non è consensuale, questo all'inizio, poi ci sono tutte le spese. Un qualcosa che fa storcere il naso a chi addirittura ha accusato, ieri il Corriere parlava di stato etico, cioè uno stato che lucra con una tassa sulle disavventure, poi di una vita quando finisce un matrimonio. C'è chi dice invece, ma insomma è il momento di manovra o morte, lo traduciamo così, bisogna fare tutti un sacrificio, bisogna tirare la cinghia, ci sono gli speculatori che ci guardano dall'estero, allora insomma per 37 o 75 euro, quello che è 85 euro, non lamentiamoci perché è il momento dei grandi sacrifici. Insomma, che ne pensate di questa tassa sulle separazioni? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora ne vogliamo parlare con l'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto, Cazzola. Buongiorno a lei, ben trovato. Così come saluto il segretario dei Radicali, Mario Staderini. Buongiorno. Radicali, buongiorno. Che avete fatto battaglie decennali sulla questione sul divorzio, adesso la tassa, Staderini, ma ne parliamo tra poco. E così come saluto il presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, Gianettore Gassani. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, inizierei da Cazzola. Cazzola, guardi, sì, l'importo lo sappiamo quello che è, però la sensazione gliela traduco con un messaggio che ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, che è questo: bastava a questo punto una sola tassa, una tassa sugli occhiali, e sai quanti soldi tiravamo su. Cioè l'idea è che molti dicono va bene far cassa, ma insomma adesso anche la tassa sulle separazioni. Cazzola, ma guardi, innanzitutto sugli occhiali si paga l'IVA, quindi insomma la tassa sugli occhiali c'è, come su tutti i beni di consumo. No? Io vorrei ricordare però che non c'è solo questa tassa sulle separazioni, divorzi, c'è una revisione della, diciamo, chiamola così, della politica delle tariffe giudiziarie, in quanto c'è tutta una serie di controversie giudiziarie che erano gratuite, che oggi non lo sono più, penso anche alle controversie di carattere previdenziale, alle controversie di lavoro, c'è una revisione di tutti i contributi per le cause giudiziarie, sia civili, sia amministrative, sia tributarie, per cui direi non dobbiamo vedere solo questo aspetto in sé discutibile, credo che ci sia un intervento, ecco, che riguarda i costi, le tasse giudiziarie, chiamiamole così, sì, dove viene coinvolta anche la questione della separazione è più complessa la questione. Anche lei dice che insomma è messa così, cioè la messa alla tassa forse è un po' discutibile. Devo dire che ieri, tra l'altro, la nostra redazione abbiamo cercato anche di contattare qualcuno, non so, esponente cattolico magari, che difendesse dal punto di vista della filosofia, no? Ma io non credo che ci sia una filosofia, no, ma infatti non ne abbiamo trovato, tutti anche che dicono no, ma assolutamente si dibatto così. No? Non c'è una filosofia. Se lei prende l'articolo vedrà che ci sono un insieme di controversie, penso soprattutto i sindacati hanno protestato per esempio perché non sono più gratuite nei gradi di primo e secondo le controversie sul lavoro, non sono più gratuite le controversie di carattere previdenziale, che erano fino adesso erano gratuite, per cui direi non c'è proprio una questione presa di mira in nome di un principio etico o di uno scoraggiamento a separarsi o divorziarsi. C'è tutta una politica sui costi delle controversie giudiziarie che può essere discutibile, ma che fa parte di una manovra che va a prendere. No, ma infatti vorrei sentire Staderini su questo, perché devo dire, ieri gli esponenti cattolici sentiti dicono ma guardate che noi non consideriamo questa una tassa giusta, cioè dal punto di vista del principio, che ne so, il matrimonio è un sacramento sancito dalla Costituzione, quindi chi rompe il matrimonio in qualche modo, tra l'altro, incarica un giudice poi di una separazione e quindi deve in qualche modo risarcire la società in maniera molto molto piccola con questi 85 euro. Ecco, Staderini, questo non l'abbiamo trovato, quindi da questo punto di vista non c'è chi difende dal punto di vista cattolico questa idea. Che succede allora? È semplicemente un far cassa in tutti i modi, secondo voi, Staderini? Ma probabilmente qualche cattolico potrebbe pensare che una tassa ridurrà il numero dei matrimoni perché disincentiva a sposarsi. No, a parte gli scherzi, io non so se si possa parlare di stato etico richiamandosi alla tassa del celibato o al premio nuziale di tempi di Mussolini. Vero è che in Inghilterra è stato adottato qualcosa di analogo con un motivo però effettivamente etico, cioè quello di disincentivare, ridurre le separazioni e i divorzi in caso soprattutto di... È vero, e quando ne parlammo tutti ci scrissero non è che arriva anche in Italia, eccola là! Eccola, probabilmente in Italia si è sfruttato il modo appunto per fare cassa. Allora il primo dato direi è proprio quello che un governo che generalmente si è fatto bello in questi anni accusando l'altra parte, la sinistra, di essere quella delle tasse, in realtà le introduce con questa manovra, a partire da questa tassa sulle separazioni fino ad arrivare all'imposta di bollo sul deposito dei titoli. Nel merito credo che bisogna ricostruire a un certo punto quella che è già oggi una situazione incredibile, che ci rende probabilmente unici nell'Occidente. In Italia oggi per divorziare bisogna fare un doppio processo, quindi due volte spendere i soldi per gli avvocati, da una parte per il procedimento di separazione e poi per il procedimento di divorzio, e questo ovviamente complica la vita, essendo uno dei maggiori fattori di stress la durata dei procedimenti di divorzio. Non dimentichiamo che in Italia bisogna aspettare 3 anni di separazione prima di chiedere il divorzio, se si aggiunge anche una tassa economica, si capisce come siamo fuori dalle medie europee. Che però arriva subito un messaggio a dire: giusta la tassa, siamo o no uno Stato a tradizione cristiana? Ci scrive un ascoltatore. Vedete che... Però vorrei capire da Gianetto Regassani, avete fatto dei calcoli come Associazione Matrimonialisti Italiani? Ci dica anche il suo parere su questa tassa, che Cazzola però dice inserita tutto in un discorso di semplificazione di procedure civile, che vabbè, da una parte messa solo la tassa è un conto, ma all'interno di tutta la semplificazione assume un altro gusto, insomma, un gusto non così amaro. Gassani. Ma io credo che indubbiamente la crisi economica del nostro paese impone un nuovo regime fiscale, ma credo che fondamentalmente fare cassa, poca cassa, su queste tasse, su pochissime procedure rispetto al panorama dei processi civili in Italia, non è che risolva molto il problema, ma va secondo me a creare invece un simbolo, il fatto che si debba pagare una tassa per esercitare un diritto in una materia che ha una sua specificità. Noi già sappiamo che, come giustamente diceva l'esponente dei radicali, in Italia ci sono già dei costi notevolissimi, tanto è vero che proprio noi avvocati matrimonialisti stiamo lottando per l'eliminazione della fase della separazione. Sembra strano, ma è proprio così. Siamo noi che non siamo certamente d'accordo col divorzio breve, che è solo un palliativo. Siamo proprio assolutamente a favore dell'abolizione, tout court, del processo di separazione che esiste soltanto in Italia, Polonia, Malta e Irlanda del Nord, guarda caso. Quindi non siamo d'accordo non tanto perché questo potrebbe penalizzare le tasche dei cittadini, ma perché credo che il diritto di famiglia sia una materia assolutamente a sé stante nel panorama giudiziario, giudico-giudiziario, e quindi non bisogna assolutamente tassare neanche di un euro, anche perché se andiamo a farci i conti... Ma ci sono dei... esatto, facciamo dei conti, quante sono le separazioni in Italia? Poi? Cioè... Separazione. Quante? 50.000 separazioni all'anno e 50.000 divorzi. Ah, ok. Quindi se lo Stato crede di fare cassa con questa mini tassa, sbaglia di grosso. Sarebbe opportuno forse ridurre le spese delle intercettazioni telefoniche, molte delle quali sono inutili. Sarebbe il caso di tassare le grandi vertenze civili dove ci si divide miliardi. Allora forse sarei d'accordo, perché io non sono affatto uno che non vuole la pressione fiscale, ma andare a toccare l'operaio che si separa e fargli pagare 80 euro è soltanto una presa in giro per l'operaio e per lo stesso Stato. Tra l'altro devo dire che il 56% dei nostri ascoltatori per ora dice di no. 50, io mi aspettavo qualcosa di più, così di distinto, e invece il 56% è contrario a questa tassa, quindi insomma vi state dividendo più o meno a metà. Sentiamo prima del traffico Michele dalla provincia di Monza e Brianza. Manco a farla apposta, Michele, fate apposta a mandarmi dalla provincia di Monza e Brianza. Michele, buongiorno. Buongiorno, grazie. Sì, dica. Allora la questione per me è molto semplice e semplicissima, è un conto della serva. Occorrono soldi, devono uscire da qualche parte, sì, a qualsiasi costo, e allora non si sa proprio più che cosa tassare. Non ha importanza che dia poco o meno gettito, è molto più facile mettere una tassetta qua che ridurre il costo delle intercettazioni telefoniche, come diceva l'ascoltatore precedente. È un incasso immediato, sicuro, perché quelli sono i divorzi in aumento e quindi arrivano più facilmente. Ci sarà, dice, un po' di protesta, però poi ma 80, non è importanza, è 80 molto più euro mettere li paghi. 25.000 tassette a destra e a manca, che è una sola grande tassa che magari spaventerebbe di brutto. Solo questione di soldi, un conto della serva. Ma sì, ma un conto della serva, ma l'onorevole Cazzola qualcosa ci ha già detto, cioè è la questione sicuramente messa così non è molto difendibile di sé per sé, però è il momento che impone questi sacrifici. Noi continuiamo allora a parlare di questa mini tassa per le cause di separazione all'800 24 00 24. Vorrei sentire Stanislao da Salerno. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, no, vabbè, effettivamente questa tassa, oltre a essere iniqua per quello che porterà nelle casse dello Stato, è l'ennesima vessazione, perché poi alla fine non risolve nessun problema, perché da conti fatti, parlando di 50.000 cause, forse porterà 1 milione di euro nelle casse dello Stato, mi sembra veramente una briciola. Però è il concetto, cioè io devo pagare il contributo unificato, devo pagare l'avvocato, pago tante spese, in più dovrò pagare questo extra, così questo ulteriore obolo. Sì. A fronte poi di che cosa sostanzialmente? Cioè non è che con questo loro risolvono i problemi della nostra crisi. È molto chiara la questione. Onorevole Cazzola, risponda ai due ascoltatori che poi hanno detto le stesse facce di un'unica medaglia, cioè l'ascoltatore che diceva sembra quasi che mettere una tassetta qui, una tassetta là serve poi a racimolare, ed è molto più facile che mettere una grande tassa, no? Riformare, per esempio, tagliare i costi della politica. E anche Stanislao dice: ma a fronte di che cosa? Raccogliere questo piccolo, no, guardi, gruzzolo. È un articolo 37 che prevede delle modifiche dei contributi unificati per i procedimenti davanti al giudice ordinario, al giudice tributario e al giudice amministrativo. A conti fatti sono 77.000 come risparmi, no, come entrate, si dice, si stima prudenzialmente in circa 77 milioni di euro la revisione del contributo unificato davanti al giudice ordinario. C'è un incremento dei contributi che sono già pagati del 10% per le cause di minore importo, del 20% per quelle di maggior importo, e poi c'è l'introduzione di questo ticket nuovo che non c'è stato per le cause del lavoro, le cause previdenziali e le separazioni e i divorzi. E poi ci sono una decina di milioni circa per quanto riguarda la giustizia amministrativa e la giustizia tributaria, per ambedue le cose. Certo, si tratta di questioni che non risolvono il problema della finanza pubblica, però fanno parte di una manovra che ha in sé anche queste cose. Si può dire lacrime e sangue, come si diceva un tempo. Queste sono lacrimette, insomma, ecco, però fa parte di una manovra dove si è andato a cercare un pochino tutto. Lei pensi che dalla norma antibadanti, di cui abbiamo parlato, quella che vuole scoraggiare i matrimoni fra il badato e la badante, che poi finisce per scoraggiare anche i matrimoni degli italiani, si prevede un incasso di 9 milioni di euro. Quindi è una spigolatura di tanti provvedimenti. Si raccimola qua e là. Infatti, Gianluigi da Milano, poi vado ancora da Mario Staderini dei Radicali. Gianluigi, buongiorno. Eccomi mi qua. Hanno detto dalla redazione che lei è favorevole, mi scrivono così, lei è favorevole alla tassa. Innanzitutto vorrei dire, non bisogna dare più peso di quello che è. Io ho fatto un ragionamento molto semplice: nel momento in cui vado in comune bisogno un certificato, pago il mio euro, ho bisogno un passaporto, pago 50 euro, nel momento in cui ho bisogno un attestato in cui risulta che io mi separo o da mia moglie o comunque una situazione diversa dallo stato civile e devo muovere un giudice, un cancelliere e tutto un ambaradan che ci sta dietro, è giusto che anche lì paghi quello che devo pagare. Guarda che Gianluigi, già si pagano fior fiori di avvocati e fiori di documenti per fare una separazione, non è che questa cosa è una cosa in più. Inizi la causa di separazione, devi pagare questo obolo in più, capisce? Questa è l'accusa. In ogni caso, Staderini, insomma, è chiaro che fare una battaglia su questo non ci sarà. C'è questa idea di coesione nazionale per cui ci saranno pochi emendamenti su cose ben importanti, ben più importanti di queste. Questo cosa vuol dire? Che passeranno tutta una serie di norme anche che non stanno bene, per esempio, all'opposizione, in nome di questa coesione e in nome di quello che sta succedendo con il rischio speculazione dall'estero? Ma io credo che bisognerebbe stare attenti a un fenomeno di questo tipo. Questa è una manovra che, come è stato detto, salva il governo ma non salva il paese. Il problema del debito pubblico va affrontato in maniera diversa, dal momento che la spesa pubblica è cresciuta da 300 miliardi del 1990 agli 800 miliardi di adesso. Nel frattempo sono aumentate le tasse. Certo, con questa tassa non si farà un grande introito, però era più facile forse, come si faceva un tempo, aumentare l'accisa sul tabacco. Però vorrei sottolineare come effettivamente c'è anche una componente di disvalore, ed è ridicola anche quando si fa pagare di più a chi fa una separazione non consensuale a chi la fa consensuale. E soprattutto poi si va ad incidere su una materia, ha detto bene l'onorevole Cazzola, si parla di tutto di aumenti a tutti i contributi per accedere alla giustizia, ma questo è un problema. Noi abbiamo una giustizia che non funziona, addirittura si aumentano i contributi che a volte diventano proibitive, cioè ancora una volta chi non ha i soldi o chi non è ricco non solo avrà dei processi più difficili perché non potrà conquistarsi ad esempio la prescrizione sul penale, che cosa che invece fanno i ricchi che possono pagarsi gli avvocati, ma soprattutto avrà un limite per arrivare alla giustizia. Pagare 500 euro o 2000 euro per aprire un giudizio al tribunale amministrativo è già di per sé, senza considerare le spese dell'avvocato, qualcosa di proibitivo. Ecco, dovremmo andare nel senso opposto. Sentiamo Bruno da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, siete in tantissimi che avete chiamato, lo sapevo. Basta parlare di tasse, separazioni, e manovra e via. Dica. Guardi, allora, io sono d'accordo con molti interventi che sono stati fatti e adesso non mi dilungo sul fatto che anche questa manovra è un indice di mancanza di strategia nella riorganizzazione dello Stato, dei costi e dei servizi. Ma voglio semplicemente riprendere un attimo un argomento già più volte trattato anche in altre sedi, che riguarda l'aspetto fiscale. Allora, che ci sia questa nuova tassazione, io adesso va bene, possiamo dire che insieme ad altri può anche starci in questa, ma secondo me tutti questi elementi devono essere riconosciuti da un punto di vista fiscale. Ah, come detrazione, fiscale. Detrazione. Vediamo, non so, se avvocato Gassani questo approccio le piace, cioè Gianettore Gassani, presidente dell'associazione matrimonialisti. Ma io avrei giusto una parentesi: noi abbiamo 165 tribunali, di cui almeno un centinaio inutili, perché non cominciamo a chiuderli? Ma la questione è le province, cioè è sempre iniziano gli altri, no? Un paese provinciale, la stessa magistratura ritiene che abbiamo dei rami secchi che sono miliardi, ma noi pensiamo che poi pagando la tassa aumenteremo la qualità dei processi di separazione e divorzio, avremo magistrati specializzati in tutti i tribunali, avremo servizi sociali che aiutano le persone che stanno in difficoltà? Che cosa avremo poi in più? Nulla. Qual è il servizio che noi sogniamo di avere? Allora forse se riducessimo le spese e taglieremmo tutta una serie di sprechi, perché la giustizia italiana è caratterizzata dagli sprechi, da situazioni dettate più dal campanilismo, ogni città vuole il proprio tribunale, anche tribunali che sono a distanza di 10 chilometri, certo, composti da 9-8 magistrati che fanno di tutto di più, cioè praticamente fanno lavoro, fanno penale, fanno separazione, praticamente non fanno nulla in senso specialistico, anche se sono grandi magistrati di trincea, e si spendono un sacco di soldi. Iniziamo da lì. No, ma io su questo voglio chiudere, però voglio nel ringraziare tutti, raccontare due messaggi che mi sono arrivati, due migliori. Il primo è: basta far pagare alla moglie, ci scrive, c'è questa tassa, e il secondo, io non ci voglio credere, ci scrive tale Machil della provincia di Trento: hai un orecchio? Paghi una tassa. Così si faceva una volta in Marocco negli anni 50. Facciamola. Io non ci voglio credere, ma mi voglio subito andare a informare. Vabbè, voglio chiudere anche così un po' col sorriso, anche perché adesso Oscar Giannino si occupa dalle 9 del tema invece ben più serio e importante, vale a dire il rischio di speculazione, l'attacco all'Italia dall'estero degli speculatori, non solo dall'estero, e quindi i rischi sui mercati finanziari con tutto quello che ne consegue. Voglio salutare Mario Staderini e ringraziare il segretario dei Radicali, così come l'onorevole Cazzola del Popolo della Libertà e Gianettore Gassani per essere stati con noi. Che dire, con Alessandro Longoni in redazione e Roberto Scaltritti in regia, vi diamo l'appuntamento a domani. Andate sulla nostra pagina Facebook, è 24 mattino, noi ci troviamo domani alle 7:20.